Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati per una nuova puntata di Zibaldone, la prima puntata di giugno, ve lo dico subito, una puntata molto musicale. Cominciamo con questo brano. Cominciamo con questa canzone che secondo me molti di voi non avevano mai ascoltato, perché beh, vi dico subito che loro si chiamano Radio Trapani, loro, Radio Trapani. Però insomma, bando alle ciance, do subito il bentornato e auguro buon pomeriggio al nostro ergonomico Banzo, che ci dirà subito dopo, oltre a buon pomeriggio, perché abbiamo ascoltato Radio Trapani. Banzo, come stai? Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Non abbiamo ascoltato solo Radio Trapani, perché Radio Trapani è accompagnato da Anton Sconosciuto, sì. Un nome perfetto, perché tu mi chieda chi è effettivamente. Chi è Banzo? È Sconosciuto, guarda, sul suo Instagram sono andato, perché Radio Trapani è in realtà lo pseudonimo di Dario Trapani, con abile anagramma, invece Anton Sconosciuto, guarda, adesso vado a controllare come si chiama, e sul suo Instagram c'è scritto Anton Sconosciuto is my real name, I guess, qualcosa del genere, quindi vabbè, non lo sappiamo. Bel inizio in medias res, proprio così, sì, subito lanciato gli ascoltatori nel caos. Questa canzone perché? Beh, innanzitutto perché era bella, e poi perché inaugura una nuova edizione del Rapporto Italia. Il Rapporto Italia è giugno 2025. Il Rapporto Italia è questa serie, diciamo, che grosso modo torna sulle frequenze di Zibaldone due volte all'anno, nella quale andiamo alla scoperta di una serie di dischi italiani usciti negli ultimi mesi, con un, diciamo, un punto di vista un po' diverso da quello tradizionale di Zibaldone, che programma molto concentrato sulla canzone d'autore, annessi e connessi, come sa chi ha la bontà di ascoltarci. Invece sul Rapporto Italia andiamo in una direzione più, mi vergogno a usare queste parole, Steven, indie e alternative. Mi vergogno a usarle perché non vogliono dire assolutamente niente. Però, è come il concetto di populismo. Sì, no, ma ho anche altri concetti che sono un po' populismo, forse è un po' lontano dall'ambito musicale, è un po' come quell'aggettivo seminale che viene usato solo nelle recensioni musicali, benché non sia un termine tecnico. E comunque sì, il Rapporto Italia ha questa missione, usiamo una parola importante, di andare alla scoperta di dischini belli dell'underground italiano, perché ce ne sono sempre tanti. In effetti ogni volta che prepariamo una scaletta purtroppo qualcosa di meritevole rimane fuori. Eh sì, però insomma, rapporto Italia giugno 2025, si tratta di album o canzoni uscite tutte praticamente nel 2025 eccetto una, ma insomma ve lo spiegheremo durante la prossima ora qui su Radio Contrabbanda. Radio Trapani, ci dicevi Dario Trapani, Anton Sconosciuto, questa Miss You da un disco Banzo che ha un titolo che qualcuno farà avere in mente, insomma, un disco di qualche tempo fa di un grande cantautore rocker, no? Beh, il titolo è Think Twice, It's Not Alright, quindi fate le vostre conclusioni, vi lascio l'indovinello. È un mini di 4 pezzi che è uscito pochissimo tempo fa, perché sul Bandcamp della Gipo Records di Firenze è indicato come uscito il 9 maggio, quindi è recentissimo, e appunto è questa collaborazione, 4 brani fra Radio Trapani e Anton Sconosciuto, che continuiamo a non sapere chi sia nel frattempo, il mistero, cioè siamo una puntata di chi l'ha visto. Sono 4 brani in inglese e in italiano, e c'è una situazione geografica interessante che non si riflette solo nell'uso di due lingue nei testi, perché in effetti Dario Trapani è di origini piemontesi, ma da una decina d'anni attivo ad Amsterdam, mentre invece Anton Sconosciuto è batterista e compositore nato a Londra, cresciuto a Siena e romano d'adozione, quindi insomma siamo spostati entrambi, sì, e quindi questo suono molto internazionale e per me anche un po' oldie nel senso più bello del termine, ecco. Sì, sì. Andiamo avanti e troviamo il secondo artista. Ascoltatevi questa canzone che si intitola Ortiche. Di giorno le ossa timidamente chiedono il sole, noi siamo fatte di sogno e lavoro, mentre la notte qui il mare negli occhi, lontano lontano pare brillare come oro. Sopra le spalle la prova schiacciante, essere grandi, avere ancora paura del buio, e poi lo stupore in mezzo alle ortiche, ancora il mio cuore si scioglie in un gesto gentile. Scusa amore, sono partita, volevo fare solo canzoni, mi serviva una ragione per sentirmi più luminosa. Vediamoci in spiaggia, facciamo la pace. È meglio essere sconfitta che non aver mai saltata. Dove è casa mia, sono io. È come l'ora nell'alba, canto nel nuovo giorno. Dove è casa mia, sono io. Sia solo più luminosa, lascio la luce accesa in un ricordo di infanzia, e lascio sopra uno scoglio tutto il mio senso d'appartenenza. Con un costume da squalo, forse mi faccio un regalo, provo un salto nel vuoto che è figlio del mio meridione, che porta il mio nome, mamma, su quel comodino canta tutta la speranza che splende sul viso di mia nipote. Scusa amore, sono partita, volevo fare solo canzoni, mi serviva una ragione per sentirmi più luminosa. Vediamoci in spiaggia, facciamo la pace. È meglio essere sconfitta che non aver mai saltata. Come l'ora nell'alba, canto nel nuovo giorno. Dov'è casa mia, casa mia? per parlarci di questa ortiche do il bentornato anche a Fausto De Salvia. Fausto, come va? Tutto bene? Mi auguro di sì. Parlaci un po' di questa ortiche e soprattutto di chi c'è dietro la bellissima voce che abbiamo appena ascoltato. Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti. Va così così, lo potete sentire dalla mia voce sensuale. Ovviamente i cambi di stagione tra la tarda ci facciamo vecchi, ci facciamo vecchi, Fausto. Ma io soprattutto, io sono il campione di vecchiaia del campione europeo di vecchiaia. Ma in questo caso abbiamo ancora uno pseudonimo, in questo caso è Aurel, ma non c'è nessun anagramma. In questo caso è il nome d'arte di Elisabetta Pasquale, è una cantautrice di Bisceglie, anche se credo che adesso viva a Roma, parlando quindi sempre degli spostamenti in Italia. Ed è una polistrumentista, suona basso, chitarra, sintetizzatore ed è laureata in contrabbasso, quindi credo anche, soprattutto, insegni contrabbasso. E in questi ultimi anni ha soprattutto lavorato con altri artisti, al fianco di Brunori, di Martino e soprattutto di Tosca, quindi parliamo di una delle voci più grandi della canzone d'autore italiana. E quindi ha messo, diciamo, ultimamente da parte la sua carriera solista, ma finalmente, dopo 8 anni, torna con un EP, quindi non è un album, sono, mi pare, 5 brani, che si intitola Monstera, e il riferimento è sia alla pianta, la pianta Monstera, quella con le foglie larghe, un po' tagliuzzate in mezzo, adesso io non sono un gran pollice. Che anche sulla copertina, no, dell'EP. Esatto, esatto. E poi il riferimento è anche genericamente ai mostri che abbiamo dentro di noi, quindi diciamo una minima trama dell'EP. Sì. Ed è un pop cantautorale raffinato, c'è la parte acustica, ma come abbiamo sentito, però con anche un po' di elettronica, grazie anche a Aldo Capasso e Marco Autierio, che sono i coproduttori del disco. Quindi abbiamo questa appunto esplorazione dell'appartenenza, delle proprie origini, però in una forma comunque contemporanea, ecco, diciamo che nonostante lei appunto collabori con Tosca, quindi con un cantautorato più classico, però abbiamo una vena più contemporanea. È un bel ritorno, ammetto che non la conoscevo, mi ero perso un po' le sue vecchie produzioni, anche perché se stai, diciamo, 8 anni senza pubblicare, effettivamente ci si può perdere, però è un artista da tenere d'occhio. Eh sì, e noi continuiamo con, in questo caso, una band di ben 7 elementi. Loro si chiamano Neoprimitivi, la teiera nera. Thank you. come avete sentito, stiamo facendo molti voli pindarici tra generi diversi e qui facciamo, Fausto, un salto veramente indietro come sonorità al prog rock degli anni 70 e tra l'altro, e poi ti cedo la parola, tanto nel nome del gruppo come anche nel titolo di questa canzone, La Teiera Nera, dei, lo ricordo, Neoprimitivi, ci sono un sacco di riferimenti. Sì, sono riferimenti direi altissimi, perché il gruppo sono i Neoprimitivi e uno potrebbe pensarci cosa gli ricorda. Mi può ricordare Shock in My Town, quindi il celeberrimo brano di Battiato, e appunto quindi si sono ispirati ovviamente per, la, per il significato del termine. E mentre l'album invece ovviamente è uscito per la 42 Records è Orgia Mistero. Loro sono di Roma, sono ufficialmente in sette, anche se solo in sei salgono sul palco e credo suonino insieme da uno o due anni al massimo. Questo è il loro primissimo album e ci siamo ascoltati il brano La Teiera Nera. L'abbiamo un pochino sfumato perché appunto in stile anni 70 era piuttosto lungo, però ovviamente è disponibile in tutte le piattaforme digitali, sì, loro sì, stanno andando sì, anche sì. In tour, quindi li potrete recuperare completamente. E appunto La Teiera Nera è un chiaro riferimento a un brano dei Gong, cioè Flying Teapot. E non c'è solo riferimento nel titolo, ma anche nel testo, perché comunque il riferimento, quattro gnomi nella loro tana preparando un tè avvelenato, è sempre comunque riferimento ai Gong. E qui abbiamo in questo album una trama che, come filo conduttore, quello di una emigrazione verso un nuovo pianeta, in cui i nuovi abitanti saranno appunto i neoprimitivi di questo pianeta. E diciamocelo, è chiaramente un riferimento alla confusa situazione attuale del nostro pianeta, questa voglia di lasciare la Terra, una Terra sempre sconvolta, per cercare un nuovo orizzonte, ovviamente in questo caso con la musica. Sì, bello questo brano. E rimaniamo sempre su esordi, perché anche il prossimo è una canzone tratta da un album d'esordio, Non Dico Niente. Lei si chiama Laura Vittoria, eccola qui. È l'ultimo gradino della via. dico niente. Laura Vittoria è il suo album d'esordio, Banzo, questa cantautrice e producer. Lei è di origini lombarde, no? Sì, è nata a Milano e vive in provincia di Bergamo. Bergamo è una, ovviamente Milano produce tantissima musica, ma anche Bergamo decisamente sì. È un territorio fertile. Sì, diciamo un disco di esordio, Steven, non dico niente al titolo del brano perché quando l'hai presentato poteva sembrare anche un tuo commento, dicevi sì. Altro, tranne il nome dell'interprete, e beh, comunque ha un significato perché il sentimento dominante, il mood, è la nostalgia per i significati persi, addormentati e indecifrabili che caratterizzano l'essere umano, questo nelle parole dell'autrice. Io ci trovo un certo substrato Wittgensteiniano, mi stavo grandemente ingarbugliando. Steven è un nome difficile, e comunque per rimanere sul tedesco il titolo del disco è Kein Traum, cioè Nessun Sogno, che è uscito ad aprile per la Tempesta Dischi e la label statunitense Minimal Vinyl, coproduzione artistica di Marco Fasolo, che è quello che ci ha attirato verso questo esordio. Marco Fasolo, la mente dietro Jennifer Gentle, membro di I Hate My Village, gruppo che a me piace moltissimo, anche Jennifer Gentle in realtà, e Fasolo ha dato una direzione decisiva a queste canzoni che erano nate per lo più con un formato strettamente cantautoriale, cioè chitarra e voce, e nel processo di coproduzione diciamo che gli arrangiamenti si sono ampliati, si sono estesi, come si è sentito, sì. Ci sono sintetizzatori, strings, pads, poi ci sono linee di basso, beat minimali, e insomma non so come fossero in originale, però il risultato finale è comunque molto interessante, c'è questo mood onirico che è forse anche uno dei leitmotiv del disco stesso, perché ci sono tematiche come incomunicabilità, il doppio e il sogno, diceva anche il titolo, e le atmosfere sono così, ecco. Sì. Non sono delle tagliate con l'accetta, ecco, decisamente. Assolutamente. Laura Vittoria, anche lei la seguiremo, e andiamo invece a trovare, parlavamo di Fasolo, e andiamo a trovare adesso Amerigo Verardi in un nuovo progetto che è nato da un annetto più o meno. Si chiamano Maverick Persona, Where Are You è il titolo che vi proponiamo. We'll be right back. in realtà, Fausto, torniamo un po', seppur in modo diverso, forse no, agli anni 70, c'è qualcosa, no? I poliziotteschi, qualcosa. I calibro 35 sono un po' diversi, ma insomma si respira qualcosa di tutto quello stile musicale lì, che ne dici? Sì, sono d'accordo, perché basso e batteria danno questo ritmo che appunto ci può ricordare sì, i cosiddetti poliziotteschi, ma no? Comunque quel prolifico filone della cinematografia italiana di genere degli anni 70. Ovviamente è tutto inserito all'interno di un altro album concept, questo è quello il secondo album dei Maverick Persona, perché un po' come fece, mi sembra, Bennato dell'80, hanno fatto uscire due album a distanza di 8 mesi, sempre nel 2024. Bennato di 2 settimane, se non sbaglio. 2 settimane addirittura, è vero. Non batto nessun record, però sono comunque 2 album in un anno. No, bravi. E in questo caso è uscito, mi sembra, a fine novembre 2024, ed è questo l'unico brano che appunto rimane dall'anno scorso. D'altronde era uscito poche settimane dopo l'altro Rapporto Italia, non avevamo ancora la macchina del tempo per andare ad ascoltare la loro produzione. Allora, qui abbiamo, come già anticipato, Amerigo Berardi, che è un nome dei più storici dell'indie italiano, perché ha 40 anni di carriera. Lui ha cominciato nell'85 con gli Alison Run, che facevano neopsichedelia, poi è passato al folk elettrico, ha fatto anche un indie rock in stile After Hours con i Lotus a inizio anni 2000, e poi anche una carriera da cantautore che a Zibaldone abbiamo seguito negli anni. Sì. Assolutamente. E adesso con un altro corregionario, quindi sempre pugliese come lui, che è Matteo D'Astore, in arte Deie, se pronuncio bene il nome, che è un giovane talento della musica elettronica, probabilmente avrà la metà dei suoi anni, probabilmente. Sono storie musicali diverse che si sono incontrate, però non in questo caso solo con elettronica, ma con un album da sonorità ricercate. E comunque Maverick, il nome del gruppo, indica il cane sciolto, no? Letteralmente, quindi è proprio la trama di questo cane sciolto in un presente post apocalittico all'interno di una società scissa, no, fra l'iniquità e quindi e contraddizioni quotidiane, e quindi come appunto viene rappresentato in questa Where Are You, che utilizza l'inglese come tutta la loro produzione. Bel pezzo, li seguiremo anche loro e rimaniamo sempre al sud. Dalla Puglia però ci spostiamo in Sicilia, Palermo più concretamente, per trovare Simona Norato con questa bella e potente Pater Noster. Padre nostro che sei nei cieli, restaci. E noi resteremo qua sulla terra, che qualche volta è così attraente, coi suoi misteri di Parigi, coi suoi bravi bambini e i suoi mascalzoni, e con tutte le meraviglie del mondo che sono qua, con semplicità sulla terra. Padre nostro che sei nei cieli, restaci, e noi resteremo qua sulla terra, con le spaventose sventure del mondo, con i padroni di questo mondo, i padroni con i loro bacchettoni, gli spioni e i marmittoni, le belle figliole e i vecchi coglioni, le belle figliole e i vecchi coglioni, le belle figliole e i vecchi coglioni, le belle figliole e i vecchi, quella miseria che fa la muffa nei cannoni. è bello potente, lo dicevamo, questo brano di Simona Norato, Pater Noster. Banzo, che come nel caso anche di un artista che abbiamo trovato poc'anzi, anche lei molto attiva, però era da anni che non faceva un nuovo album da solista, questo infatti è il secondo. Sì, erano 7 anni che non pubblicava un album, Simona Norato, l'abbiamo seguita molto, però diciamo, non sono stati 7 anni di vuoto, perché ha fatto di tutto di più in questo lungo periodo, collaborazioni con Di Martino, Cesare Basile, Io sono un cane per l'album Ira, che ha avuto insomma, la risonanza che ha avuto, giustamente, è un album molto importante. Poi anche con Diodato un lungo tour, quindi insomma diciamo che non si è concentrata sulla sua produzione personale, però musicalmente è stata più che mai attiva. Comunque è una cantautrice polistrumentista, quindi ovviamente doveva tornare alla propria produzione, e lo fa con un'uscita che è veramente croccante, recentissima, perché l'album Enigmistica è uscito il 3 giugno ed è un lavoro molto coraggioso, a cominciare dalla scelta dell'autoproduzione, perché è un album che ha una distribuzione ma non ha una vera etichetta, ed ha anche una veste sonora molto minimale, con registrazione in presa diretta, pianoforte e la voce di Simona Norato, poi synth, batteria, sax baritono, clarinetto, basso e trombone, quindi un suono molto particolare, per 8 tracce che stanno un po' in equilibrio fra vari mondi, cantautorato classico, avanguardia, elettronica, e si sentono anche un po' tutte queste influenze degli artisti con cui ha collaborato, non che li abbia vampirizzati, però ovviamente alla fine ritornano in qualche modo, e abbiamo questo brano d'apertura, Pater Noster, che è una preghiera blasfema, quindi ci va benissimo, Steven. E antimilitarista, che riprende una poesia del 46 di Prévert, con groove elettronici e fiati che accompagnano il recitato di Simona Norato. Eh sì, un bel brano, seguiremo ancora Simona Norato, e adesso andiamo a sentirci Laguna Bollente, bellissimo nome. Questo sono fuori dalla coppia, in estasi, Beh, qui Banzo facciamo veramente un salto sia musicale, l'avete sentito, ma anche geografico, perché dalla Palermo di Simone Onorato andiamo nel nord-est con Laguna Bollente, ma poi anche il titolo dell'album Fantasbocco e il titolo della canzone che abbiamo sentito, Sette Mediatiche, ecco, sono tutti interessantissimi. Dici qualcosa tu telegraficamente. È un festival di titoli bellissimi, è un duo veneziano formato da Elia Fabbro e Dunia Maccagni. Il nome pare che derivi da un ex club per scambisti a Venezia, quindi si vola altissimo. Abbiamo citato questi titoli, hanno in discografia, hanno pubblicato un demo e un EP nel 2020 che si chiamano rispettivamente Disco Scesso e Nord Sud-Ovest Cert, che è un titolo, sono innamorato, sì. Anche Fantasbook è bellissimo però. È un album che ha una storia di pubblicazione abbastanza particolare, è uscito sul loro canale YouTube in due puntate fra aprile e maggio, prima il lato A e il lato B. Questa Sette Mediatica è la seconda canzone, quindi era nel lato A. E insomma, il suono si è sentito, è povero, è lo-fi, ci sono questi, cioè, riverberi abbastanza a volte soffocanti, ci sono però sotto queste cadenze post-punk e wave che si notano, e poi c'è questo immaginario dei testi che forse non si coglie, i testi sono interessanti ma non sono sempre intelligibili, va detto. E vabbè, l'immaginario è come la Divina Commedia, nel senso che unisce alto e basso in modo agevole. Abbiamo il ballo del qua qua, Teo Mammucca ripestato a sangue fuori dalla Coop, condividiamo però non fatelo a casa. E però in un altro brano, ad esempio, c'è il Montale di Satura, citato più volte quasi come un ritornello. E insomma, c'è moltissimo, hanno moltissimo da dire, solo che a volte, a causa della produzione, e credo che sia una scelta cosciente assolutamente, non si capisce al primo ascolto. Comunque, guarda Steven, siamo degli stalker, seguiamo anche loro. Ma sì, e adesso rimaniamo nel nord e andiamo però nel milanese. Questi sono i brani che piacciono a te, Banzo. Raccontaci un po' di questi Bad Plug, l'album Macho Man Moonflower Fields, terzetto milanese. Sì, beh, l'ho tirato brevissimo, non posso tenere il commento molto più lungo del brano. Allora, sì, si dedicano a un incrocio fra synth punk e garage, insomma, si è un po' sentito. E a partire da giugno 2022 hanno messo insieme una discografia digitale fatta per lo più di brani singoli, anche se c'era un EP. Questo Macho Man è importante perché è la loro prima uscita su vinile, è stato pubblicato dalla mitica Wild Donnelly di Franz Barcella, bergamasco, grande agitatore underground. E, sono cinque brani. Macho Man è una cover, cioè una rilettura, è un po' incredibile perché viene definita come una furiosa e decadente reinterpretazione del classico dei Village People. Andate a sentirla, è quasi riconoscibile. Poi, per concludere questo intervento, sono un gruppo, non si prendono troppo sul serio, si capisce anche dalla copertina, torno al mio antico vizio di spiegare le copertine via radio. Abbiamo un muscoloso protagonista in posa, solo che al posto della testa ha un plug anale, quindi si spiega anche il nome del gruppo, ed è un personaggio che li seguirà forse nel futuro, spero. Sì, noi rimaniamo a Milano per un altro progetto da seguire, TV Dust, eccolo qua. TV Dust, Smelly Floor, Banzo, l'album si chiama Transition, dicevamo anche loro sono milanesi, un trio con una bella energia. Il trio sono una formazione ideale per me, li cerco apposta, però te lo dico poche volte. I TV Dust hanno alle spalle una discografia di 4 EP con coordinate crowd rock e attitudine punk, è stato pubblicato, i 4 EP sono stati raccolti da Maple Death, che è l'etichetta che pubblica anche questo Transition, uscito a fine gennaio, che diciamo implica un po' una mutazione nel sound del gruppo, perché sparisce la voce e nelle parole del batterista Sergio Tringali questo ha portato il suono a aprirsi, approfondirsi, a diventare meno catalogabile. Potrei dire che c'è anche un ponte che unisce il crowd con lo spirito della no wave newyorkese, perché le ritmiche con al basso Filippo Aloisi hanno sempre questa ballabilità, sì, però straniante. Mm. E per rimanere in tema di no wave abbiamo il terzo membro, che è Gaetano Pappalardo, al synth e ai sax, che è uno strumento cardine no wave, pensiamo a James Chance, e il tutto con i suoi strumenti conferisce una certa vena psichedelica molto obliqua, quindi è un suono pieno di riferimenti che tu sai, insomma, a me piace molto, conosci un po' i miei gusti a questo punto. Eh sì, continueremo a fare gli stalker anche con i TV Dust e li seguiremo, e ora scendiamo un po' nel nord della Toscana, tra Massa e Carrara troviamo gli Asino, eccoli qui. fuori. Muoio, muoio, muoio, che ogni dopo sono un grosso buono. Muoio, muoio, muoio, fumo a secca, sei pacchetti in mano. Muoio, muoio, muoio, guido male, male, male, faccio i danni, danni, danni, solo marcio, marcio, marcio, marcio. Diciamo che i nostri ascoltatori questo venerdì, Fausto, li facciamo andare a pogare fin da subito. Asino, Limpionica Funeralia, questo è il titolo particolare del loro brano. Natura Morta è invece il titolo del disco. Raccontaci qualcosa, perché ormai siamo proprio in chiusura, su questo progetto e su questo album. Intanto gli Asino sono Giacomo e Orso, come già detto vengono da Massa e da Carrara, e come dicono nella loro biografia, suonano insieme da tanto, sono amici e si vogliono bene. E a quanto pare il titolo Natura Morta è venuto perché non sapevano come altro chiamarlo. Quindi diciamo abbiamo geni e sregolatezza al 100%. E l'uscita del disco è per Dischi Decenti. Ci sono dei problemi, temo, di collegamento, Fausto. Passiamo velocemente perché siamo proprio ormai a fine trasmissione. Il bello della diretta, si voleva dire, no? Banzo, intervieni pure tu, perché Natura Morta, l'ha detto Fausto, si è capito ancora, è il titolo di questo album. È un genere un po' bizzarro che mescola il noise rock ma anche con altri generi, e loro in una vecchia intervista avevano addirittura lo avevano definito free punk, no? Ma in realtà credo che fosse una definizione dell'intervistatore, però la trovo azzeccata. Comunque del noise rock non hanno quella compattezza caratteristica, perché a volte sfociano in questa specie di casino vagamente estatico, sono abbastanza casinisti, si è sentito, è comunque un suono molto particolare, un trademark molto deciso, e soprattutto abbiamo detto che sono un duo. Non si nota molto dalla quantità di suoni e di rumori che popolano i loro brani, e a volte anche dei campionamenti. In un brano di questo disco c'è la televendita di un tappeto persiano, pensa. Fa molto ridere. Questo fa molto ridere. La cercherò. Ascolta, Banzo, siamo davvero alla fine di questa puntata di Zibaldone. Salutiamo a distanza Fausto, che ha avuto problemi tecnici. Noi ci salutiamo con un brano che ci riporta a Palermo. Alessio Bosco, però lui si fa chiamare artisticamente 30 Door K, da un film di un regista polacco di ormai più di 30 anni fa. Sì, che è un adattamento del romanzo Ferdy Durk di Witold Gombrowicz, grandissimo scrittore. E beh, ci sono tanti riferimenti alla letteratura, perché ad esempio anche il titolo dell'album, Warning to the Curious, è un omaggio a M.R. James, maestro inglese della ghost story fra 8 e 900. E le atmosfere sono spettrali, non sono angoscianti come di solito succede per questo genere. Siamo un po' anthology, library music, e in effetti l'etichetta, la Sub Exotic Records, è inglese, perché l'Inghilterra è un po' la mecca di questi suoni, sì, della anthology, della library. E, diciamo, il suono è questo. Lui è esordito a febbraio 2024 con un mini di 5 brani che sono tutti ripresi in questo album, che invece dura 58 minuti, è molto lungo, e benché sia molto compatto, diciamo, nei filoni di ispirazione, nelle fonti di ispirazione, riesce a risultare sì compatto ma non ripetitivo, e anzi è abbastanza caleidoscopico. Ci sono queste atmosfere misteriose e retromaniache declinate in un sacco di modi, e tu come sai, con questo tipo di sound vado in brodo di giuggiole. Eh sì, ma adesso ce lo ascoltiamo tutti per salutarci. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zibaldone, ci ritroviamo venerdì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda dalle 5 alle 6, però come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.56 diceva tutti i venerdì: comunque prima o poi una puntata in cui descriviamo soltanto le copertine degli album senza dire autore e titolo dobbiamo farla. Va bene, lo faremo. E se non l'avete capito, la citazione iniziale era ovviamente di Bob Dylan, 34K, Someone at the Top of the Stairs. Ciao Banzo, buon venerdì sera e buon weekend a tutti.